è una costante nel ricatto, ma una costante che non esiste e non deve esistere nella pratica, innanzitutto perché in realtà se si va a vedere laddove i territori sono stati utilizzati, prosciugati, inquinati, poi non è rimasto nemmeno il lavoro, quindi questa scelta non esiste nemmeno da un punto di vista economico, non esiste nemmeno nella narrazione dominante, perché in realtà ci convincono che la transizione climatica sia già sulla propria strada e che non ci sia da far nient'altro che attendere. La verità è che oggi la lotta per la giustizia climatica e la lotta per la giustizia sociale coincidono da tantissimi punti di vista, sia perché dentro un mondo che va in rovina non è possibile riprodurre semplicemente le lotte economiche tra alluvioni, aumento delle temperature e altro, sia perché dal punto di vista concettuale in realtà la giustizia climatica porta lavoro, porta un lavoro diverso, nuovo, migliore. Il tema di quello che producevate alla GKN è un tema che avete affrontato nel collettivo di fabbrica? Quello che noi producevamo alla GKN erano semi-AF per veicoli commerciali, principalmente per auto di lusso. Dal punto di vista strettamente tecnico, i semiassi continuano ad essere utilizzati anche sulle cosiddette auto elettriche di nuova generazione, quindi a maggior ragione noi non avevamo nemmeno una ragione tecnica per contrapporre la cosiddetta transizione nel mondo dell'automotive. La verità è un'altra, la verità è che noi siamo stati chiusi dalla speculazione finanziaria e che oggi non c'è nessuna alternativa a ripartire in GKN se non attraverso capitale pubblico, tant'è che noi siamo dichiarati fabbrica pubblica socialmente integrata, ma noi pretendiamo che questo capitale pubblico non sia dato a babbo morto al privato, ma che anzi sia utilizzato come leva per ragionare, per far ripartire la fabbrica dentro un polo pubblico della mobilità sostenibile, cioè dentro un intervento pubblico complessivo che sottragga l'automotive e quel che ne rimane non soltanto alla logica finanziaria di sfruttamento, ma anche alla produzione di veicoli individuali che, indipendentemente dalla motorizzazione che hanno, che ovviamente conta, non voglio ora fare facili semplificazioni, però noi crediamo che sia il veicolo individuale di per sé qualcosa che deve essere superato a favore di una mobilità pubblica e gratuita. Tu prima hai spiegato come giustizia climatica e giustizia sociale hanno molti punti in comune, una delle parole chiave della vostra battaglia è anche la convergenza, e si converge anche in vista di una manifestazione che ci sarà qui a Bologna il 22 di ottobre. Com'è nata questa convergenza? La convergenza è stato il metodo con cui GKN ha provato a resistere sin dall'inizio. Noi entriamo nel 15° mese di assemblea permanente, non è solo una coincidenza di forze, è un prendere atto delle mille interconnessioni tra le lotte. Farei notare che mentre allargano le strade e cementificano ulteriormente per allargare tangenziali e strade, noi come operai dell'automotive le macchine non le produciamo più e non ce le possiamo più permettere, e in un mondo migliore vorremmo non permettercele più, ripeto, a favore di un'altra mobilità. Ma la convergenza è anche accumulazione di una nuova classe dirigente dal basso, perché dentro questa interconnessione che in realtà noi approfondiamo la nostra capacità programmatica di leggere l'esistente, leggere la realtà. Un altro punto di convergenza che avremo nella manifestazione di Bologna è il contatto con le reti contadine, alternative alla grande distribuzione e all'agricoltura intensiva, perché in fondo quel maledetto salario che a fatica ci portiamo a casa vorremmo che fosse usato anche per una diversa alimentazione, e in fondo il consumo del territorio a cui è sottoposto questo paese e la crisi idrica che ci colpiscono è solo un altro aspetto della rendita finanziaria che ha chiuso la nostra fabbrica. Quindi la convergenza è per questo, per altro e per tutto. Io mi mobilito per questo, cioè per il mio prevalente, mi mobilito per altro, cioè prendendo atto che sono solidale con le altre lotte, ma per tutto perché prendo atto dell'interconnessione da ogni punto di vista delle diverse mobilitazioni.